L'asfalto comincia a sciogliersi anche nelle strade milanesi, è il luglio reale, meteorologico, anche se non ancora probabilmente come date, e la mia testa si scioglie esattamente come l'asfalto, come si scioglierà l'asfalto nelle strade tra breve. Quindi oggi vi parlerò di due cose assolutamente completamente diverse, che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma insomma sono due cose. Una è una vera novità, l'altra è una pseudo novità, ma ve ne parlo lo stesso. Allora, la prima è, insomma, parliamo di fumetto oggi un po', perché da pochi giorni, 2, 3, forse 4 giorni, nelle edicole campeggia l'ultimo nato della scuderia Sergio Bonelli Editore, come tutti voi sapete, il papà di Tex Willer e di Dylan Dog, cioè un vecchio mito e un nuovo mito del fumetto casareccio italiano, però forse in parte anche formato esportazione. Ecco, dopo tanti anni di traccheggiamenti, il buon Sergio Bonelli ha finalmente deciso di darci, nella sua scuderia, anche un fumetto di fantascienza. Si chiama Nathan Never, molti di voi lo sapranno. Nathan Mai, praticamente, vuol dire. Nathan Mai, sì. È un fumetto di fantascienza che è insieme classico e moderno, tradizionale e sperimentale, vecchio e nuovo, ammiccante e rassicurante, un po' come tutti i prodotti della Sergio Bonelli, che hanno un grandissimo successo proprio perché riescono a fondere insieme tante di queste caratteristiche. Quindi forse ai più sofisticati di voi non piacerà magari tantissimo, però direi che è una cosa da prendere, insomma, da leggere, perché è la prima volta, no, ora dimmi, insomma, correggo, non è la prima volta, è la seconda volta in questi anni, in questo anno in particolare, che un gruppo di autori giovani italiani cominciano a cimentarsi con la fantascienza in fumetto, tenendo conto naturalmente delle ultimissime tendenze. La prima volta, come tutti voi sapete, è stata Cyborg, la rivista che continua ad uscire, vi segnalo tra mille parentesi, che tra pochi giorni sarà in edicola il numero di giugno, sempre con qualche, diciamo, ritardo, poi questa rivista recupererà tra luglio e agosto. Comunque Cyborg è una rivista abbastanza sofisticata, tutto sommato, anche se molto, diciamo, godibile, ma con una formula molto diversa da questa di Nathan Never. Nathan Never è una fantascienza più o meno futuribile, con qualche eco cyberpunk. In questo primo numero troviamo presentato il personaggio, l'eroe eponimo, come dicono i dotti, appunto Nathan Never, quello che dà il titolo a tutta la saga. È una specie di poliziotto privato, insomma, però è un dipendente di un'agenzia, infatti si chiama Agente Speciale Alfa, questo primo numero. Ci sono dentro un sacco di componenti, come voi appunto vedrete, ci sono le tre leggi della robotica di Asimov. C'è un intrigo stellare, ci sono i poliziotti corrotti, c'è la Yakuza, ci sono gli androidi, insomma ci sono tutta una serie di componenti, di ingredienti della fantascienza classica, rivista con un minimo di humor, con un po' di certo, sempre secondo questo standard Bonelli, che appunto non è una cosa estremamente sofisticata, però abbastanza godibile, insomma, specialmente per una, insomma, lettura, diciamo, rilassante. Quindi noi auguriamo grande successo anche a questa nuova creazione, di questo appunto editore, che poi è in pratica uno dei leader del mercato del fumetto italiano, con questa nuova serie di fantascienza, fumetti di fantascienza, Nathan Never. La seconda segnalazione invece sta in libreria da qualche settimana, perlomeno 3 o 4 se non di più, però io ve la devo segnalare lo stesso perché si tratta di un autore in fondo ormai per certi versi classico, molto interessante. Siamo agli antipodi per certi versi della fantascienza, anche se non proprio, forse. Siamo nel regno del fantasy, voi sapete che ogni tanto io per dovere di obiettività mi immergo anche in questi mondi che non apprezzo personalmente tantissimo. L'autore è il famoso per gli appassionati, meno famoso forse per gli altri, Michael Moorcock, inglese puro sangue. Il titolo è La saga di Gloriana, fa un po' schifo il titolo italiano, insomma, il titolo inglese è più secco, Gloriana. Il fantasy di Moorcock, per chi lo conosce, ripeto, io non sono un grandissimo estimatore del genere. Moorcock è tra i pochi autori di fantasy che in qualche modo mi riesce di leggere, mi riesce di apprezzare. Ricordo il famosissimo ciclo Elric di Melanie Bonnet. Questo Gloriana, un libro forse meritatamente, forse no, celebrato quando apparve alla fine degli anni 70 in Inghilterra, è del 78 esattamente, quindi arriva da noi con parecchio ritardo, racconta di una sorta di universo parallelo, di una ucronia, chiamatela come diavolo volete, di una specie di Inghilterra elisabettiana in cui la regina Elisabetta ha le stesse perversioni sessuali della sua omologa storica, ma si chiama in altro modo, si chiama Gloriana. Il mondo è un po' diverso da come noi lo conosciamo, però con un po' di sforzo le coordinate le comprendiamo lo stesso, ci sono gli arabi, c'è una Spagna molto sullo sfondo, i tartari, l'Europa continentale, guardate un po', è dominata dalla Polonia, è una intuizione direi di grande contemporaneità, insomma, di grande intuizione per le cose di oggi. Questa Gloriana, insomma, è la storia di questa diciamo regina di Albione, che ovviamente è l'Inghilterra che più o meno domina il mondo, soprattutto dal punto di vista diplomatico, e di una specie di personaggio tipico di questi insomma, romanzi fantasy che vengono chiamati sword and sorcery in genere, cioè spada e stregoneria. Si chiama il capitano Quire, scritto Quire, e questo è al centro di un intrigo che dovrebbe riuscire a in qualche modo abbattere o comunque far cambiare natura a questo regno di, diciamo, Gloriana, e invece il finale, come tutti voi vedrete, è completamente a sorpresa. L'interesse, per chi ama il fantasy già di per sé, non ho bisogno naturalmente di raccomandare questo libro di cui si era già parlato parecchio qua e non si era ancora potuto leggere in lingua italiana. Per chi come me è un po' tiepido verso il fantasy o comunque è così così a mezza strada, insomma, vi dirò che le cose che possono interessare sono una sorta di aspetto notturno, quindi c'è questo grande palazzo reale in Londra con una serie di sotterranei, e c'è questo parallelismo tra la vita diurna nel palazzo e una sorta di vita notturna o come dire parallela in questi sotterranei. A mio insomma parere il tema non è sviluppato così bene come avrebbe potuto essere. Io avrei insistito di più, avrei calcato un po' di più la mano su questo carboncino nero, su questi queste ambientazioni spettrali, lugubri, notturne, eccetera. Comunque ci sono una serie di punti, di cose interessanti. Se non vi fa troppo schifo il insomma lieto fine, se non vi fa troppo schifo il tutto, comunque ve lo potete leggere, perché è, appunto, ripeto, per chi ama il insomma fantasy è una cosa un po' fuori forse dei canoni normali, però abbastanza interessante. Per chi è così così, per chi ha una propensione minima o comunque bassa verso il fantasy, vale comunque la pena di leggerlo, perché non è propriamente proprio dello stesso tipo delle cose che si leggono in giro. Insomma, c'ha qualche spunto di originalità, perché Murko è comunque un autore interessante. Allora, ripeto, vi ho segnalato oggi il primo numero di Nathan Never, da pochissimo tempo in edicola. Sono 2300 lire per un bianco e nero molto contrastato, molto forte, le solite 110 pagine degli albi, 108 pagine mi sembra degli albi Bonelli. E invece Michael Moorcock, la saga di Gloriana, edito da Arnoldo Mondadori editore, al prezzo di lire 24.000 soltanto, per ben 298 pagine. E vi saluto per oggi sperando che l'asfalto non si sciolga completamente.